tu dici? Tutti al mare, beati loro. Ah, per carità, ciao Marco. Che casino che c'è frequenza con questa propagazione, per carità. Poi adesso quest'anno hanno la mania delle FM, tutti le FM sono. È vero, guarda, io ho sentito persino gli spagnoli quest'anno a raffica in FM, a parte la banda laterale che hanno sempre usato. Molti spagnoli in FM, che loro erano i più fanatici, no, dell'SB, della M. Forse si sono accorti che in determinate condizioni hai dei vantaggi, diciamo, in FM, dai. Buonasera Giulio, comunque, da ben entrato. Ci deve essere un carnaio, più casino al mare ci deve essere che non in frequenza qua. Sì, sicuramente la gente se n'è andata al mare, se n'è andata. Preferisce il mare che il baracchino, è ovvio, non male, no? Però mi meraviglia che quest'anno la propagazione in AM non è buona. Sì, magari ci sono dei momenti discreti, però generalmente l'FM è splendida, è fortissima. Sì, purtroppo è propagazione lunga, cioè non è la propagazione dal nord Italia alla sud Italia, è tutti i paesi esteri, Francia, Germania, Spagna, poi magari altre lingue che non conosciamo bene, magari sembra tedesco, magari sono olandesi, austriaci, tutte quelle lingue là. Break. Avanti Brecchi, buonasera. Buonasera, Natalino Alfa 1 qua. Volevo fare una prova per vedere se questo microfono sta andando. E mi ho costruito un microfonino per questo 3009 di quelli manuali, da. Sì, ciao Natalino. Sì, va bene. Io ti sento molto bene. La radio è chiara, è pulita. E diciamo che come potenza è abbastanza discreta, perlomeno da parte mia. Vai Marco. Sì, a livello di modulazione va abbastanza bene. Fammelo sentire ancora, vai un po'. Un microfono normale, dai, di quelli come quello del 34 Intech che ho in macchina. Praticamente l'ho adattato a questo 3009, dai. Sì, leggermente un po' citofonica, ma leggermente, cioè non è molto calda come il mic originale, ecco. Questa è un'altra capsula che ha questo microfono, la capsula sua originale, gli ho fatto solo i collegamenti e basta, non è che ho fatto niente dentro il microfono, capito? Ma sbaglio, Giulio? Sì, in effetti hai ragione, appena sinfonica, sì, però è abbastanza chiara, si capisce benissimo, perlomeno io qua con questa recensione per me è buona, non sarà eccezionale, però è buona, un microfono normale come tanti e per me va bene la salita. Io che non ho problemi. Lei ha l'alternata però Natalia, c'è qualche filettino un po', non so che tocca o non tocca. E qualche filettino un po', e che ne so io, c'è l'alternata adesso. E conta che prima avevo il volume al minimo Natalia, magari non me ne ero accorto appena sei entrato, poi ho alzato il volume per un ascolto normale e l'ho notata. E l'alimentatore è nuovo, è di quelli switching, forse c'è il computer vicino magari e mi fa l'alternata, non lo so. Sì, a proposito di Natali, tu l'avevi preso quel famoso switching da 50 ampere 12 volt che avevano preso tutti i CB da quel venditore eBay? No, negativo, io ne ho due, uno da 30 e uno da 35. No, perché io dopo tanto mi ero deciso di prendere uno di quegli alimentatori switching 12, che poi sono alimentatori per strisce LED, no? e devi mettere i cavottuli, devi fare le banane femmine, tu, vabbè. Quel venditore famoso da cui l'hanno preso tutti i CB, ce l'ha tuttora, questo da 50 ampere, però ho visto che ha messo un nuovo modello da 80 ampere, costava pochi euro di più, ho detto prendiamo quello lì, 80 ampere, siamo che dobbiamo testare qualcosa di grosso in futuro, e l'ho preso per usi futuri, così, se mai sia che debba servire. Break da pista. Infatti, dai, vabbè, un attimo di quel rixio, sto facendo una cosa qua. Ok, avanti il break da Pisa, buonasera, Sassari qua. Buonasera, buonasera Sassari, qui operatore 1 Sierra Alfa 115, operatore Alessio in Pisa, avanti. Ciao, ciao Alessio, ben sentito, qui appunto Sassari, Nord Sardegna. Io al momento sto utilizzando il 3009 nudo e crudo con soli 3 watt utili e un microfono amplificato KPO, non so come si pronunci. Vediamo se ascolti l'amico Giulio, sempre dalla città di Sassari. Vai Giulio. Vediamo un po' se riascolta con un watt. Buonasera all'amico di Pisa, Giulio da Sassari. Non so se mi ascolti perché sto utilizzando un watt solamente. Vai K. Sì, buonasera, giù un segnale ogni tanto purtroppo sovrammodulato. Vi ascolto entrambi, se mi puoi ripetere il nome dell'altro amico, il primo che ho... Ok, adesso do una sensatina, così mi dovresti sentire anche meglio. Sì, è Marco, sempre dalla città di Sassari che ti rimando avanti. Vai Marco, per l'amico, poi ti dirà il tuo nome nativo, l'amico di Pisa. Vai Marco. Ciao, sì. Allora... qui ti ascolto con QSB, segnale oscillante, però si è arrivato fino a 8,5, quasi alle soglie del 9, però con molto QSB, segnale sale, scende e la modulazione è ottima. Io sto utilizzando un'antenna 5 ottavi, modesta, della Energy, e 3 watt, praticamente stiamo usando i watt ridotti per il QSO locale. Ecco, viene avanti l'amico di Pisa. Ok Marco, perfetto, 5 in questo momento il tuo rapporto. Arrivate bene tutti, Marco che Giulio, vi ascolto benissimo e complimenti se siete in QRP, ancora meglio fare il collegamento, arrivate veramente bene, non è facile collegare la Sardegna qua dal mio QTH. Vai Giulio. Ok, l'amico di Pisa, mi dirai poi il tuo nome nativo, o perlomeno il nome di battesimo. Sì, beh, evidentemente sei in una posizione allora un po' critica per la Sardegna, ma io mi ricordo che lì in Toscana, negli anni passati, addirittura io ci parlavo in qualsiasi momento dell'anno, in estate, in inverno, sempre, con una donna che modulava lì dalla città di Firenze, se ricordo bene, sì, di Firenze, e ci parlavo tutte le sere. Evidentemente la Sardegna con la Toscana, diciamo che non è poi così male. Vai ancora l'amico di Pisa. Sì Giulio, allora il mio nome è Alessio, 1 Sierra Alfa 15 il mio nome nativo, comunque seconda reazione corta, almeno qua da parte difficile che riesca a collegare la Sardegna. Anni indietro si riusciva, ma ora io non sono mai riuscito se non in questi eventi di propagazione corta. Tutto avanti Marco. Dai Marco non riprende, forse si è dovuto allontanare per motivi impellenti, per cui continuiamo noi, ma già rientra subito sicuramente. Sì, Alessio, mi sembra che hai detto il tuo nome di battesimo. Sì, in effetti era così, non è che modulavo con tante persone, però con questa ragazza che era lì a Firenze ci parlavo tutti i giorni, in inverno, in estate, senza la propagazione. Vabbè, evidentemente dove abito io c'è un canale diciamo diretto verso la Toscana, e allora in quella posizione riuscivo a sentirla tranquillamente, non molto forte naturalmente il segnale, però parlavo io e un altro amico sempre della Sardegna, della località di Osino, parlavamo in 3 tutte le sere immancabilmente. Vai Alessio. Senti, purtroppo non è mai capitato di riuscire a fare collegamento così in diretta con l'isola qua della Sardegna, Nonostante abiti a circa 20 km dal mare, io abito qua in provincia di Pisa e praticamente ho il mare a vista quasi, non c'ho ostacoli per il mare, quindi però non è facile, ecco, collegare la Sardegna, soprattutto collegarla anche qua in altezza modulata, anche in altezza modulata è ancora un altro traguardo. Ok, io provo a rigirare per Marco, sei rientrato, se no riprendi te Giulio. Ok, Marco sei rientrato? Marco non è rientrato, lui ha dei momenti che deve assentarsi, ma noi ormai sappiamo come funziona, andrà dalle sue parti, per cui sappiamo benissimo che si deve allontanare di tanto in tanto. Dai, continuiamo noi, ma già rientra senz'altro, come fa sempre, insomma, ecco. Sì, Alessio, ma in effetti è così, No, ma adesso sto utilizzando 7-8 watt più o meno, ma poc'anzi mi hai sentito addirittura con un solo watt, guarda, te faccio di nuovo la prova, rimetto un watt, guarda, con un watt, adesso sto uscendo con un watt, giusto, e uno di stazionarie, mi senti ancora? Confermo Giulio, confermo. Allora, con un watt c'è una radio di 4, un segnale di 7, quando eri invece a 8 watt mi hai toccato il 20, quasi 9-20. È una 5, una telefonata, vai per te. Ok Alessio. Vabbè, naturalmente a volte utilizziamo bassissima potenza per ovvie ragioni, è ovvio, però diciamo che visto e considerato che ci si riesce ad ascoltare, va bene così, dai, va bene ugualmente. Vediamo un po' se rientra Marco sei rientrato? No, Marco? No, non ancora. Vediamo un po' se c'è Natalino, anche Natalino non riprende perché poc'anzi c'era un altro amico qua che stava collegando un microfono, stava collegando, evidentemente sta facendo le saldature al momento e allora anche lui è impegnato. Strana però la propagazione quest'anno, quasi tutti vanno tutti in FM, non capisco come mai quest'anno l'ampiezza modulata sia quasi deserta rispetto alle trasmissioni che ci sono in FM e anche in banda laterale. Rientrato. Ok, vai Marco, vai, scusa Alessio, vai Marco. Sì, sento molti segnali sotto. Allora Alessio, vediamo se sono riuscito a recuperare un paio di Santiaghi. Ho attaccato un aiutino, spero che la modulazione non vada in saturazione per via dell'amplificato. Vedi un po' come va adesso. Io confermo il 9 per te. 9 come segnale massimo. Sono coperto io per l'Italia, per la penisola, Ok Marco, 9 più 10, 9 più 10 in questo passaggio, un leggero 9 più 20. Punte di 9 più 10, la modulazione è perfetta. 3 giugno invece mi è sparito, è andato su delle 5, 6, ogni volta veniva sovramodulato, c'è molto mailame, con le stazioni sono. Giulio a te se mi copia ancora. Ok, riprendo io, non so se mi dirai se hai difficoltà ad ascoltarmi, poi casomai ripasserò come lo poc'anzi, quando mi hai detto 9 più 20. Va bene Alessio, suppongo che tu riesci ancora ad ascoltarmi, ma in caso contrario me lo fai sapere. Avanti ancora Alessio. Adesso c'era una portantina. C'era una portante Marco, o cosa era? No, io sento un segnale in propagazione che sale e scende, un segnale muto oppure in FM. Siamo un bel po' di attività, Sì, beh, in effetti sì, soprattutto l'FM sta andando alla grande oggi, veramente, come ti ho detto poc'anzi Marco. Purtroppo è così. Vediamo un po' se mi senti ancora Alessio, ci sei? Giulio, ho rimesso il microfono. Alessio, non mi sentivi più? Adesso mi dovresti sentire. No, ti ho chiamato due volte, ma probabilmente non mi sentivi più, Ti confermo, mi eri sparito nel QRM, cioè c'è un sacco di stazioni sotto. Ora comunque ti ho ascoltato. Allora, se provavo un attimo FM, se ci ascoltavamo FM, se per voi va bene, interrogativo. Ok, per me va bene, dai, facciamo una piccola prova, ma sono per un istante, perché non posso andare in FM che ho qualche problema in antenna. Ok Alessio, vai Marco un attimino in FM. Ok. Attento Alessio. Ecco, sono in FM, vediamo un po', Giulio. Giulio, avanti, ti ascolti Alessio. Operato. No, Giulio sta cadendo come preme la portante e sparisce. Ecco quale, se io sono con gli stessi watt, saranno una cinquantina, e modulazione FM, ho abbassato il mic per ovvi motivi, mi copi bene, cambio. Roger Marco, 8989, Radio 5, ma purtroppo c'è un amico dalla Germania che sta provando a chiamare, tanto sovrammodula, eh. Comunque ti ascolto bene. Ci sei? Sì, ci sono. Non so se, infatti anche quello mi ha chiamato, anche quello mi ha chiamato poc'anzi. Non so se mi stai ascoltando, Alessio. Giulio, confermo, 7-8 per te, ti ascolto bene. Ok, dai, ritorniamo in AM, dai, che non voglio rischiare niente qua. Ok, poi ti spiegherò, Marco. Ritorniamo in AM. Sud Italia, Sud Italia. Ma era uno dalla Romania, ho sentito che mi stava chiamando, Marco. Ok, c'è anche il Sud Italia che chiama, chiamate in FM, vediamo se compare in M. Avanti il Sud Italia per la Sardegna? No, non vedo segnale. Era basso, era FM, ma era molto basso. Sì, anch'io vedevo i segnali bassi, evidentemente non andava molto bene. Avanti Alessio. Ok, no, negativi miei al Sud Italia, no. Ok, signori, io passo i saluti perché c'è un sacco di stazioni sotto e diventa un po' complicato andare avanti qua per me, e anche perché bisogna che poi fra poco puoi farsi in QRT. Quindi dai, è stato un piacere collegarvi, spero di sentirvi in queste ore. Chiedigli le condizioni di lavoro in breve. Collegare l'isola più grande che c'ho davanti casa, proprio fa veramente piacere collegare la Sardegna, non è facile qua da me. Un salutone a tutti, Marco, Giulio, e rimetti il microfono per il Marco, vai. Ciao, allora vado. Ci puoi dire in breve, molto in breve, le tue condizioni di lavoro, interrogativo? Sì, Roger, Marco, allora io sto andando con una Alinco SR9. Il microfono è uno Z-Agi, un MV+5, e l'antenna è una Sirio Blizzard. In questo momento siamo intorno ai 60-70 watt modulati. A te, Marco. Complimenti per il segnale, adesso si è andato al 9+, forse anche 9++, 9,5 tendente al 9,10, quindi veramente ottimo. Ok, io ti ricambio i saluti, ti ripasso Giulio per i saluti, vai Giulio. Ok, visto e considerato che stai chiudendo, allora io ti saluto e ti ringrazio per il piccolo QSO, carissimo Alessio, e ti stringo la mano e un abbraccio virtuale da parte mia, dai. Evidentemente se hai altre volte la possibilità di ascoltarmi, mi farebbe piacere se ti fai risentire. Ok Alessio, ancora grazie per il QSO, salutoni, buona serata, riprendi, ascolto il finalino. Ok Giulio, ti ringrazio. Una cosa veloce, usate questo canale voi interrogativo, il vostro canale monitor? Il nostro canale monitor è sempre sul canale 10, solitamente sul canale 10. Ok, perfetto, allora dai, i prossimi giorni ci sarò attento, se vi ascolto vi faccio una chiamata. Vi ringrazio per questo, salutoni qui dalla Toscana, da Pisa. Bravo. Ok, grazie ancora Alessio, salutoni e ancora una stretta di mano ed un altro abbraccio virtuale. Ciao ciao, ti ripasso Marco per i saluti finali, vai Marco. Alla prossima, va bene, quindi canale 10, Sassari Sardegna, canale 10, canale monitor in AM di solito, ok. Chi altro chiamava avanti per la Sardegna, Sassari, avanti. Buongiorno, buon pomeriggio da Genova. Oh, la mia città natale, avanti Genova. Vi saluto per un controllo, sto provando un apparecchietto qui nuovo, PMI, ecco, arrivi molto bene comunque, S9. Allora, sì, ben sentito, diciamo, modulazione un po' bassina, perché c'è molto rumore sotto di propagazione, è un segnale molto oscillante, con segnale fino a 9, quindi una media di dal 7 al 9 oscillante, ecco. Grazie, anche tu arrivi S9, molto bene, ti ringrazio. Roberto, provincia di Genova, ciao, ciao. Ciao Roberto, hai detto l'apparecchio è un PNI? Sì, un PNI, quelli omologati, Escort HP 6500, 4 watt. Sì, sì, lo conosco, è un apparecchietto minuscolo per la macchina che stavo corteggiando, non per me ma per un'altra stazione in baramobile. Ok, sì, quello sarà una valida alternativa, ecco, soprattutto per collegamenti anche tra macchina e macchina. Giulio, senti l'amico di Genova, c'è un omologato lì addirittura, Sì, sì, lo sento benissimo, non so se lui mi sente adesso, vediamo un po', non so se mi senti l'amico di Genova, io ti ascolto molto bene, mi fai Santiago 9, radio non molto forte, però 5 per l'intelligibilità, è molto chiara, avanti ancora l'amico di Genova, ti ha ascoltato Giulio da Sassari. Sì Giulio, ti ascolto, è un po' basso ma ti ascolto, molto contento di questo collegamento. La propagazione mi sembra molto buona comunque, molto buona, non me l'aspettavo veramente. Grazie a tutti e buona giornata. Avanti, non mi ricordo il nome, scusa, mi pazienza. Ecco, Giulio copio. Ok, sì, ti copio. Ok, Roberto, mi sembra, di Genova. Io ti ringrazio allora per il collegamento e c'è qualcun altro che chiama e ti saluto, dai. Ciao Roberto, salutoni. Intanto ti mando di nuovo avanti Marco per il saluto finale, poi vediamo un po' di ascoltare anche l'altro amico che mi chiamava. Vai Marco. Cappa, va bene, allora un salutone a Genova e provincia, ripeto la mia città natale, Genova, proprio Genova, Genova. Noi siamo sul 10 a Sassari, canale monitor in AM di solito. Avanti l'altro amico che chiamava Giulio con l'effetto eco, avanti, buonasera. Buonasera, qui la stazione di Bologna, volevo vedere se arrivavo fino lì. Giulio, difficoltà a copiarli perché hanno parlato in due o in tre. Sì, anch'io ho avuto un attimo di incertezza perché non ho capito bene il suo numerativo, però lo ascolto, ma c'è evidentemente proprio in quell'istante un'altra modulazione che ci sovrapponeva. Vediamo un po' Sud Italia, vediamo un po', dai, vai, vieni avanti per Giulio da Sassari, vai ancora con il tuo numerativo, K. Positivo, stazione Tigre. Bologna. Ah ok, Bologna, molto bene, avevo capito poc'anzi Sud Italia, evidentemente è stato un mio errore. Natalie. Sì, Tommaso. Bologna. Ecco da Bologna, vai. Cappa, copiato l'amico da Bologna, segnale medio con molti altri segnali sotto. E quindi mi perdonerei se non ho copiato bene il passaggio. C'è anche Natalino alla Sassa, e Natalino, quando vuoi fare prove, falle. Adesso l'antenna è più alta, tanto guarda Giulio c'ha pochi watt e l'amico da Genova stava modulando addirittura con un omologato di quelli tipo il Polmar, è un PNI, è simile al Polmar che tu, che ho io, capito? No, non ce l'ho più quel Polmar, l'ho regalato quello lì perché non andava, comunque l'ho sentito anch'io l'amico Tigre da Bologna. Avanti Bologna, se ascolti la stazione Alfa 1 da Sassari, cambio. Sono di cabina sotto, a vedere se mi arrivo molto. Aspetta prima. Copiato Livorno, avanti. Buona serata, qui Mauro 2 da Livorno, stazione bassa, dai, con un Livorno. Cappa, mi hai sentito, qui Marco da Sassari, il tuo segnale oscillava da 5 a 7, 7 e mezzo massimo. Giulio, vai tu per Livorno. Ok, buonasera all'amico del Livorno, Giulio da Sassari. Santiago 8, radio buona, non dico 5 ma buona comunque, ascoltabile, non c'è problema. Avanti ancora Livorno, si è ascoltato Giulio da Sassari, Cappa. Per la prima dalla Italia VG Vicenza. Un attimo solamente, scusami, che siamo in collegamento con Livorno. Allora, attenzione Livorno, se vuoi ripetere il tuo nominativo, perché purtroppo ci sono altre sovramodulazioni, sembra fatta apposta e quando parli c'è una sovrapposizione del radio. Avanti ancora Livorno per il Sassari, K. Oh, si è chiusa di colpo. Infatti adesso non so se ha salutato o cosa ha fatto, va bene, c'è l'amico di Vicenza, avanti Vicenza, se ascolti ancora Sassari. Attenzione Sassari, attenzione Sassari, sentite Torino, Torino, stazione 1, Romeo Giulia, operatore fermo, operatore fermo, Torino, Torino. C'è Torino, Nord Italia. Un attimo l'amico di Torino, ti ascolto benissimo, non c'è problema. Un attimo Pino di Torino, ti ascolto benissimo, c'è l'amico di Vicenza che stava modulando. Avanti Vicenza ancora per Sassari. Vittorio, Roger, dai, con i 7-3, ben sentita anche la Sardegna, qualcuno che ascolta Torino Nord Italia, Torino Nord Italia, c'è quello di Torino che sta insistendo e copre. Pino, un attimo per cortesia. Pino, Giuseppe, ti ho sentito benissimo, un attimino solamente. Vai Marco per Vicenza che sta chiudendo. Ciao l'amico di Vicenza, purtroppo ci sono sovramodulazioni e siamo costretti a chiudere il collegamento con te per dare spazio ad altri. Avanti, ci scuserai, ma purtroppo funziona così. Da quando c'è propagazione ci sono sovrapposizioni e non è possibile andare avanti tante volte oltre il dovuto. Vai Marco. Marco, sei sparito di nuovo? Si è spostato. Buonasera l'amico di Bianco per me. Non so se ascolti qua la stazione Alfa 1 da Sassari. Ok, vediamo un po', dai, vediamo di stabilire un pochino l'ordine, perché come ho detto poc'anzi ci sono molte sovramodulazioni. Vediamo se mi ascolta ancora Pino da Torino, avanti Giuseppe o Pino, uguale, da Torino, se ascolti Giulio da Sassari. Aspetta Giulio. Adesso passa in M, era laterale. Va bene, riprendi Giulia, adesso arriva l'amico di Torino in AM, è bianco per me. Ma io lo sentivo benissimo qui in AM. Avanti Torino, si ascolti ancora Sassari. Marco, non è possibile continuare, dai. Sopra modulazioni ci sono, non è possibile continuare così, dai. Io ho Natali, vabbè, facciamo questo locale, dai. Cosa vuoi che ti dica? Purtroppo la propagazione non ci consente di fare QSO con gli amici del continente, perché appunto ci sono delle sovramodulazioni, forse loro non si ascoltano, non lo so, sarà così e allora si sovrappongono. Vai Nathalie. Ok, al limite facciamo questo locale, cosa vuoi che ti dica? Quando si mettono così a sovramodulare uno sopra l'altro viene impossibile poter fare i collegamenti. Sì, e poi c'è anche trasmissioni in FM, dunque tutto si mescola, per cui non è possibile poter andare avanti così. E va bene, dai. Come avrei potuto notare, la tenuto, so, se era l'ascolto, anche con un basso mi ha sentito più volte, perché ho fatto almeno un paio di prove, mi sentiva con un suono basso, mentre invece con l'apparecchio che ho, mi sentiva 9 più 20 addirittura, quello di Pisa, l'amico di Pisa, va bene così, dai, vai Marco. Marco aveva fatto bianco, magari si è spostato e sta facendo qualcosa, dai. Ok, va bene lo stesso, si vede che lui già lo sai, no, è impegnato la sera, deve fare alcune lingue, per cui lo sappiamo che si può allontanare di tanto in tanto. Vai Natalia. Sì, K, c'è molto QRM, c'è. Infatti, ma tu già riesci a sentirmi lo stesso, senza difficoltà? Sì signore, già ti sento io. C'è stata una passata adesso di QRM, ma non ti ha fatto niente a te. Ok, lo so, qui addirittura il QRM tante volte mi sale anche a 8-9. Purtroppo è così, poi quando si sovrappongono si sa e allora è impossibile, perché è come dire, l'unione fa la forza, no? Più portanti e meno trasmissione. E infatti diventa una cosa impossibile, uno sopra l'altro, si sovramodulano uno con l'altro e quindi diventano incomprensibili praticamente. In effetti è così, vabbè dai. Comunque questo baracchinetto già funziona a Natalì, no? Non avevo ancora provato, per cui sono contento così, dai, va bene così. E infatti, io purtroppo non posso né alzare né abbassare, questo è così e me lo devo tenere così. Ok, vabbè, quello sì. Ma si sa, poi siamo sempre a livello di omologato, mio, niente di più. Siamo sempre a livello di omologato, per cui si sa, le prestazioni sono quelle, non è che sono eccelse, però diciamo che quando c'è la preparazione, ci aiuta la preparazione e fa un miracolo. Vai, Marco, ci sei? Sì, sono rientrato momentaneamente. Ma tu pensa Giulio, non avevo fatto neanche in tempo a dire che la propagazione era lunga, che sentivano tutti i paesi esteri e non l'Italia, sono arrivate una valanga di chiamate tutta dall'Italia, per fortuna dico io. Sì, se consideri tu, abbiamo iniziato con Pisa, mi sembra, poi si è sovraggiunto Genova, poi Vicenza, poi Bologna, poi Torino, c'era poi qualche altra chiamata che non sono riuscito a decifrare perché si sa, si sovrapponevano e per cui qui non era possibile ascoltare. Pazienza, dai, comunque mi ha fatto piacere fare questo piccolo collegamento così, va bene così, sono contento. Vai Natalia. Infatti, a me mi hanno risposto dall'Olanda ieri con Marco, no, con Carlo stavamo parlando, io e Marco con questo dell'Olanda, capito? E con quattro batte mi hanno sentito ugualmente. Sì, quando c'è preparazione, guarda, è un miracolo veramente riuscire ad ascoltare le stazioni così. No, stavo notando che oggi, come oggi, forse il vento, non lo so, avevo prima uno di stazionali, adesso sono a 1-1, vabbè, non, niente di particolare, va bene ugualmente, però no, non l'avevo ancora notato fino a questo momento, comunque 1-1 va bene lo stesso, non c'è problema. Vai Marco. E magari da un watt hai messo 4 watt, 5, magari per quello, poi ricordati che lo strumento dell'apparato non è proprio affidabilissimo, è un contentino che mettono, però ancora ti dà un'idea di come sono le stazionarie, dai. Comunque sono contento che col microfono amplificato e la scatoletta aggiuntiva non saturi, non sta saturando né strappando, no Giulio? Giusto? No, assolutamente no, io ti sento benissimo, non c'è che dire Marco, giorni addietro avevo addirittura detto che per me a livello di QSO così da salotto la tua radio è la più bella che mi piace, la migliore che io ho apprezzato, insomma, ecco, premesso che ce ne sono tante radio ultime veramente, anche molto forti, ma quella sia per la potenza della trasmissione che hai, che per il segnale anche, che va benissimo, non c'è problema, ma la radio mi piace molto, la tua pacatezza eccetera, la timbrica soprattutto, dai, è una modulazione che non stanca, anche se se stai tutta la sera al baracchino. Vai Marco. Poi con l'amplificato sto sempre a quattro dita o poco di più, quindi una cosa se parlo così, che senti tutti i rumori e gli sputacci eccetera, e una cosa è stare a questa distanza, è un po' più pulita. Sì, c'è una differenza, stando a distanza è ancora più pulita, è vero, hai ragione, va benissimo comunque. Io ho apprezzo molto la tua timbrica, la tua modulazione e soprattutto la tua, il tuo modo di parlare con pacatezza eccetera. Bene così, avanti Natali. Bianco per me di nuovo. Yeah. Ok, e infatti una delle modulazioni più perfette, diciamo così, quella di Marco. Sì, a me piace, la verità, a me piace, non voglio togliere niente a nessuno, sia ben chiaro, perché tutti bene o male arrivano molto bene, ma io intendo per fare salotto, ad esempio, io starei tutta la sera anche attaccato, penso un po', perché sono sicuro che è una modulazione che non mi stancherebbe per niente, assolutamente, comunque, va bene così, ma comunque non voglio togliere niente a nessuno, perché tutti arrivano molto bene, di più chi meno, chi più chi meno forte e chi più chi meno chiaro, ma comunque bene o male la radio è 5 per tutti tranquillamente, non c'è problema. Vai Natali. Sì, infatti io ho riattaccato l'MV più 4, ho riattaccato, non so se ci sia l'alternata, boh, questo 3009 mi fa l'alternata, chissà cosa Marazzucchi è. Ma se devo essere sincero, io alternata non te ne sento adesso proprio. La radio ha migliorato, è diventata più forte, senza dubbio, la timbrica è sempre quella, nel senso che la tua voce, però la radio è migliorata moltissimo con quello, il microfono lì, per cui va bene. In quanto ha fatto di alternata io non le sento, perché con tutto il frastuono che c'è della propagazione, figurati se riesco a sentire l'alternata. Dovrei avere una radio molto sensibile, a differenza di questo che non è sensibile per niente, per poter ascoltare se c'è veramente un'alternata, a meno che non metti la portante e sentiamo senza parlare cosa ti posso rispondere. Vai Natali. Ok. Sì, effettivamente c'è un piccolo, non è un fruscio, non so cosa dirti, ma lo potrei paragonare ad una ventola, leggera, ma così lo sento, ma niente di più, non so come spiegartelo per avere un'altra tonalità, un suono, come lo puoi chiamare questo ronzio, che poi non è proprio un ronzio vero e proprio, bensì è un ronzio un pochino con toni alti, però sono bassissimi, io ci sento un rumore bassissimo, niente di più, che tra l'altro quando parli lo copri abbondantemente. Ho capito. E può darsi sia la ventola dell'alimentatore magari che fa un po' di rumore, né? Io non la sento perché è in alto e lontano l'alimentatore, ma poi non sta assorbendo niente questo baracchino, cosa assorbe? Sì, in effetti è così, sicuramente è la ventola dell'alimentatore, è senz'altro così, vabbè comunque. Marco, sei rientrato? Sì e no, all'ascolto. Assumi. Scusate, faccio una pausa, mi mangio un cannolo tutto bello pieno di ricotta, di così, arancia candita, di gocce di cioccolato, un bel caffè, come piace a Natalino, vai Natalino. No comment. Io glielo faccio apposta che lui non ne può mangiare, che però, scusa, tu li puoi mangiare, no? Senza esagerare, ma puoi gustare un po' di tutto, l'importante è stare, non eccedere, no? Infatti, li ho mangiati anche i cannoli, poi a me non mi sale più di tanto la glicemia, capito? Sono io e non le mangio perché poi me la fa salire. A me ieri per esempio me l'ha fatta salire il pane perché ho mangiato il riso, dopo mezzo panino, mezzo, senza la mollica, con un uovo dentro, di quelli a duro, beh, me l'ha fatta salire la glicemia, ci credi? Un pezzettino di pane. Prego, prego, prego, prego. Registrato. Facciamolo venire avanti subito, dai. Avanti Giovanni con la buonasera, non so se hai ascoltato, sono io, poi Natalino e anche Marco, vai Giovanni. Ciao Giulio, ciao Natalino e un saluto a Marco, tutto bene, dai, pausa sigaretta da parte mia. Vabbè, quello ci vuole, perché al vizio una tiratina ogni tanto ci vuole. Ti mando avanti Natalino per salutarti, vai, vai Natalino. Ciao Giovanni, ben sentito, buonasera, ben entrato. Serata lì, grazie. 10-12 al giorno, dai, già le sto diminuendo pian piano. Sarebbe una cosa bellissima, diminuire sempre di più, fin quando non riuscirai ad eliminare il vizio del fumo. Vabbè, purtroppo è così, lo so. Anche se io non ho mai fumato in vita mia, però riesco a capirti cosa vuol dire il vizio del fumo. Avanti Marco. Scusate, tra tira e molle, chiama, non chiama, io non c'ero, dai. Mi è sembrato di sentire Carlo che è entrato, lo saluto e lo rilancio, io faccio bianco che un attimino qua faccio quello che devo fare, dai. Ok, dai. Giovanni era, non era Carlo. Avanti giù. Ok, sì, ma è stato già ascoltato Giovanni, sì, si è salutato da Marco, già avrei ascoltato sicuramente, purtroppo lui ha degli impegni lì a casa che di tanto in tanto deve staccare e poi riprende. Va bene, avanti Giovanni. Sì, l'avevo capito che si era sbagliato, dai, volevo entrare, però poi ho visto che ci avete pensato voi e va bene così. Saluto Marco se sei ancora in ascolto, ciao e buon lavoro. Ok, va bene, dai, non c'è problema. Poc'anzi abbiamo fatto alcuni collegamenti con il resto dell'Italia, non so se hai ascoltato, se hai ascolto, Pisa, Torino, Vicenza, Genova e qualche altro posto anche, che adesso non mi ricordo nemmeno. Si chiamavano tutti quanti a ruota, uno dietro l'altro, ma poi abbiamo dovuto interrompere perché non era possibile fare sovramodulazioni, Giovanni, troppe di sovramodulazioni, e dunque ascoltarli tutti uno sovrapposto all'altro non era possibile. Vai Giovanni. No, purtroppo non vi ho sentiti perché ero da un'altra parte. È sempre bello comunque, cioè, sentire gli altri da fuori. Sentivo a te mentre ne parlavi, ti ho sentito prima quando ho acceso e stavi proprio parlando di questo, di questi collegamenti che hai fatto, ma non, io non vi ho sentito, l'ho acceso proprio in quel momento che tu ne stavi parlando, non vi ho sentito proprio. Ok, sì, evidentemente quando ho detto quello avevamo appena finito di parlare con il resto dell'Italia, perché purtroppo c'erano delle chiamate ma si sovrapponevano e dunque era diventato un po' difficile, allora abbiamo interrotto il collegamento extra a Sardegna. Vai Natalia. Kappa. Purtroppo. Oh signor. Un attimo che hanno suonato, scusate. Ci hanno suonato il campanello, l'ho anche sentito, penso un po'. Bello squillo. Avanti Giova, e allora cosa mi racconti oltre al fatto che stai cercando di diminuire il numero delle sigarette? Erano cose belle Giulio, erano cose belle. Ho fatto degli esami e sono tornato appunto a campo. Dunque mi devi aprire un'altra volta. Ok Giovanni, mi dispiace, ti capisco perché diciamo che anch'io ci sono in mezzo, ci sono, ma sembra che la cosa mi stia andando bene, fortunatamente. Adesso dovrò riprendere al mese entrante, dovrò riprendere il seguito della terapia e comunque sono già tre anni che sto lottando, ma grazie a Dio la fortuna mi sta assistendo, dai, oltre al fatto che mi hanno assistito molto i medici. Vai Giovanni. Sono contento per te, dai. Io speravo di essere uscito a cazzo invece niente. La settimana scorsa ho avuto questa brutta notizia. Vabbè. Andiamo avanti, via, prendiamo quello che arriva. Beh certo che sì, d'altronde non è che ci possiamo fare niente noi, purtroppo il destino alle volte ci riserva delle sorprese, però si può riservare anche delle sorprese positive nel senso benevole. È chiaro, bisogna, quello che conta molto è avere fiducia e continuare a fare quello che stai facendo, cioè la cura, in poche parole. Purtroppo arrivati anche a una certa età siamo soggetti, sai, di tanto in tanto a fare qualche piccolo tagliandino, come per le macchine, no? È positivo, cazzo, però non è questione d'età, cazzo, perché questa roba qui, cazzo, ce l'hanno dai piccoli ai grandi, cazzo, una cosa impressionante, un'epidemia, cazzo. Lo so Giovanni, lo so, purtroppo è così, è cosa che vuoi fare. Lo so, purtroppo arrivata ad una certa età ci dobbiamo aspettare sempre qualcosa di nuovo e sperando sempre che si riesca ad eliminarla e a curarla quando capitano cose del genere. Io ormai ho superato anche gli 80, sì che ti puoi immaginare, a questo punto qualcuno può dire, ma se hai 80 anni che cosa vuoi? E non voglio niente, voglio vivere serenamente fin quando è possibile vivere, tutto lì, Giovanni. Te lo auguro Giulio, te lo auguro di cuore, te lo auguro. Ok, grazie Giovanni. Purtroppo, se sa, le persone siamo soggetti anche a queste cose, purtroppo è così, vabbè. Tiriamo avanti, dai, finché la vita ci assiste e finché la fortuna e soprattutto Gesù Cristo ci dà una mano, dai. Lui vuole bene a tutti, io Giovanni. Non ho capito l'ultimo passaggio, c'era quello sotto. C'era una portantina forse. Ho detto che bisogna tirare avanti e avere buone speranze e soprattutto ho detto che Gesù Cristo vuole bene a tutti. Si penserà a Lui, come ci dobbiamo comportare. E oggi come oggi vivo la giornata, non mi ha fatto più nulla di nulla. Quello che viene mi prendo. Certo, questo è ovvio, non è che possiamo cambiarcelo noi. Il sistema di vita non è che lo possiamo cambiare, perlomeno per quanto riguarda questo particolare qua, però bisogna sempre non mollare, dai, quello è molto importante, la volontà, è molto ma molto importante, io la penso così Giovanni. Sì, fai bene a pensarla così, non è sbagliato, certo. Avanti la portantina Santiago Otto. Avanti? No, non stai uscendo in radio. Aumenta la radio perché non ci sentiamo. Strano, io vedo un segnale minuscolo, ma appena Santiago 6, ma non sarebbe se qualcuno in FM in propagazione in FM, che in AM non lo senti quasi. Può anche essere Marco, non è escluso quello, però non sento nessun riverbero della parte dell'FM, è quello. No, ho pensato che magari qualcuno che non sta uscendo in radio, tutto lì, riprende Marco. Sì, stavo notando come ci siano dei momenti di blackout nella propagazione, prima segnali, poi come proprio un blackout e momenti di calma piatta, che cosa strana. Sì, perché non è stabile ancora, capito? Magari è anche quello, l'effetto della propagazione, chissà da quale paese arriva quella portantina, però diciamo che è anche variabile, un po' arriva 8, un po' arriva 6, un po' arriva 7 e così via. meglio va? Giulio, vai. Ecco, io vado a fare un caffè. Niente, vi saluto e continuo a fare qualcosa, dai. Buon proseguimento e alle prossime. E intanto vi auguro anche un buon fine settimana. Ciao Giulio, ciao Natalino, ciao Marco e a chiunque sia in ascolto. Ciao, ciao, ciao. Ok, ciao Giovanni, grazie per la chiacchieratina, dai. È sempre un piacere ascoltarti. Quando mi senti mi fa piacere sentire a salutare, almeno un salutino così, 5 minuti, e mi fai contento, dai, ci sentiamo, ti mando avanti gli amici per salutarti, vai Marco per salutare Giovanni che sta chiudendo. Ciao Giovanni, ci sentiamo alle prossime, buon proseguimento di serata e buon tutto, vai Natalino. No, forse Natalino si è salutato. Ah no, ha detto che stava andando Giulio a fare il caffè. Altrettanto farò io adesso. Uia, che fiacca. Comunque Giulio, questo per la cronaca è il 3009, non troppo omologato. I watt sono gli stessi, sono 4, c'ha qualche canale in più e il trimmer della M è aperto. Ecco perché esce più brillante col mic sia normale sia amplificato. Sì, è una radio brillante, proprio bella, bella, non c'è problema. Io l'apprezzo molto Marco. Sì, va bene così. Vabbè dai, se devi andare a fare caffè anche tu vai. E così io magari faccio un attimo di pausa e vediamo un po' cosa decido di fare. Magari scendo giù e prendo che so io una bibita o qualcosa del genere. Non bibi, non confondere, ho detto bibita, non bibi, perché io alcolici non ne bevo, nemmeno la birra bevo, penso un po', a livello di alcolici. Va bene Marco, dai, eventualmente se coincide ci sentiamo dopo, dai, fra un po', ok? Vai pure Marco, vai e attendi quello che devi fare in famiglia. Ok, ciao. Ciao Natalia, se stai ascoltando, a dopo eventualmente se coincide. Ciao, ciao, riprendi pure Marco. Sì, un'ultima prova, un attimino. Adesso ho messo il mic a manetta, ma sempre 4 dita dal mic, volevo vedere se riuscivo a saturare l'ingresso della scarpetta. Mic a manetta, 4 dita, abbondanti, così lontano tutto il braccio, vedi un po', dimmi se riesco a saturare. No, non saturi, diciamo che irrobustisce la modulazione, però non saturi assolutamente, va benissimo, a distanza di tutto il braccio va benissimo, non c'è problema. Ripeto ancora una volta, non saturi, però irrobustisce la modulazione, evidentemente la spinta cambia un pochino, dai, ma aiutiamo lo stesso, non c'è problema, Marco. Io sto continuando sempre con omologato un watt, per cui tu che sei col 3009, l'altra volta me l'avevi dato con l'analogico, cioè con il digitale segnale, adesso dammelo per cortesia con l'analogico che stai usando adesso, vai, anche se so che il 3009 non è affidabilissimo come strumento, vai Marco. Allora, tu sei sulla tacchetta che c'è dopo il 9, sei quella tacchetta della scala RF, 9 più 5, quello considero 9 più 5 con leggeri picchi positivi. Può essere, diciamo, passabile, dai. Io ho 3 watt, vedi un po'? Vabbè, no, tu ce l'hai a LED, non fa. Ok, io sono sempre con le barre qua e tu me le accendi tutte. Me le accendi tutte o perlomeno quando moduli me le accendi tutte. Quando invece non stai modulando in quel preciso istante si abbassa di una o due barre, però quando parli si accende tutto fino in fondo, fino al 9.30. Scusa Giulio, ho sbagliato. Adesso sono 3 watt, adesso. Portante muta. Ok. Sì, 9.5 con un moduli tende leggermente a 9.10 ma non ci arriva. Ok, anche qua io di preciso non è che te lo posso dare, però diciamo che oltre il 9 sarà il 9 e il puntino, un